Letture di Radio 24. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, molti reduci vennero accolti con disprezzo, a volte anche aggrediti. Una parte della popolazione li accusava di essere servitori della reazione borghese. In un saggio pubblicato sulla rivista Nuova Storia Contemporanea, la storica Sabrina Sguiglia della Marra sostiene che queste reazioni violente da parte dei massimalisti contribuirono a scatenare il fascismo. A pochi mesi dal termine delle ostilità, gli uomini in divisa videro conculcata e svilita la propria immagine presso la società civile, che manifestò in maniera ancora più radicale, con aggressioni, assedi alle caserme, una profonda animosità nei confronti del mondo militare. In luogo delle celebrazioni vi furono il risentimento, lo scherno, gli episodi di intimidazione e di aggressione contro ufficiali e soldati in uniforme, per lo più ad opera di socialisti, che contribuirono a sdoganare la violenza e a determinare la progressiva degenerazione dell'ordine pubblico. Essi avvalorarono agli occhi del mondo militare l'immagine di un paese ormai dominato da elementi antinazionali e antipatriottici, irriconoscente e dimentico dei sacrifici affrontati dai combattenti. Il fenomeno delle aggressioni agli ufficiali sembra trovare una delle sue principali spiegazioni nell'atteggiamento irresponsabile dello Stato liberale, che in tutte le sue istituzioni, e segnatamente nell'esercito, non si curò dei profondi conflitti che ne minavano la compagine sociale, prima ancora che politica, ricusando anche una comprensione approssimativa delle istanze propugnate dal mondo militare. Se è vero che la propaganda fascista dette una strumentale risonanza alle violenze e alle ingiurie subite dai militari ad opera dei socialisti, tali episodi indubbiamente si verificarono e, come affermarono anche alcuni tra i massimi esponenti del movimento operaio, ebbero ferali conseguenze. Nei primi due anni del dopoguerra, infatti, le celebrazioni della vittoria non furono numerose e dovettero svolgersi clandestinamente a causa delle incursioni dei sovversivi, e si registrarono numerosi casi di ufficiali consegnati alle caserme per non essere coinvolti in scontri coi socialisti. Decisamente risoluto nel denunciare e censurare la connivenza di ampi settori delle forze armate col fascismo, Salvemini in più occasioni osservò come il clima avverso e animoso nei confronti degli ufficiali li avesse resi vittime in ogni parte d'Italia di violenti attacchi che in alcuni casi portarono alla morte. Il paese, secondo il presidente del Consiglio Nitti, sembrava non dimostrare sufficiente gratitudine nei confronti di coloro che avevano difeso e salvato la patria, mentre in ogni altra nazione vincitrice, in Inghilterra e in Francia, ad esempio, le manifestazioni di riconoscenza tributate all'esercito erano tali da rincuorare e confortare chi aveva combattuto e sofferto. Avete ascoltato alcuni passaggi dal saggio di Sabrina Sguiglia della Marra, 1919, Botte ai Reduci, pubblicato sul numero 3 2011 della rivista Nuova Storia Contemporanea e ripreso sul numero 7374 del mensile Storia in Rete. La Sicilia si conferma la regione con il maggior numero di dipendenti pubblici e di dirigenti pubblici in rapporto alla popolazione. Se si vogliono operare dei tagli in questo momento di crisi, bisognerebbe pensare anche alla cattiva politica delle periferie. A Montallegro, in provincia di Agrigento, non sono tutti allegri. Crisi nera, nerissima. I dipendenti comunali, però, non hanno proprio motivo di lamentarsi. Se i municipi della Valsabbia, mettendo insieme una serie di servizi, hanno un dipendente ogni 538 abitanti, nel paese siciliano, contando i precari, ce n'è uno ogni 58, 9 volte di meno. Ma non è questo il record. Il primato dei comitini, con uno ogni 14, resta imbattibile. Non a caso è finito in prima pagina sul New York Times. Anche il primato di Montallegro però è imbattibile. 7 dirigenti, uno ogni 6,3 dipendenti, escludendo i precari, uno ogni 3. Stratosferico. Quale possa essere il peso di quei 7 dipendenti sul bilancio dello Stato è ovviamente impossibile da accertare. Minimo, sicuramente, ma la sproporzione è indicativa di come l'autonomia di cui godono gli enti locali sia stata via via usata in modo sventurato, con scelte capricciose del tutto indipendenti da ogni necessità organizzativa e più ancora da ogni vincolo di bilancio. Sommate il capriccio di Montallegro con altre migliaia di capricci simili o comunque insensati in giro per l'Italia e vi ritroverete con uno stato colabrodo impossibile da risanare. Sia chiaro, non è soltanto il Mezzogiorno a dare problemi di questo genere. Pochi giorni fa il Corriere di Bologna raccontava che la stessa regione Emilia-Romagna, che per altri versi è un esempio di buona amministrazione, ha distribuito il premio di produttività a 137 dirigenti regionali su 168. Sinceramente, è plausibile che l'81,5% dei dirigenti sia composto da fuori classe? Ma, altro esempio. Dice un recentissimo rapporto della Corte dei Conti che ogni 100.000 abitanti la Lombardia ha 26 dirigenti regionali, la vicina Liguria 48, la Calabria 83, l'Abruzzo 85, l'Umbria 103, la Basilicata 121 e il Molise addirittura 272. E parliamo soltanto delle regioni a statuto ordinario, perché la sola Sicilia, spiega un altro dossier scandalizzato della Corte dei Conti, ha usato negli anni lo statuto speciale per gonfiare i suoi dirigenti fino ad averne 2.320, cioè 9 volte più della Lombardia, che ne ha 256, pur avendo il doppio degli abitanti. Cosa c'entra l'autonomia? Un fico secco. E Mario Monti deve averlo chiaro. Per tagliare davvero, deve partire dal centro per dare l'esempio. Ma le escrescenze costosissime della cattiva politica sono troppo spesso in periferia. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gian Antonio Stella, Primati indecenti, dal Magazine 7 dell'1 dicembre. Mentre nei negozi di dischi tornano 4 album fondamentali di Enzo Iannacci, proposti per la prima volta in CD, nelle librerie arriva la prima biografia ufficiale del geniale cantautore. La scrive il figlio Paolo, che di suo padre dice «Non sarà un santo, ma attraverso la semplicità e l'ingenuità nell'osservare il mondo, ha saputo diventare migliore». Il libro si intitola «Aspettando al semaforo», un luogo dove padre e figlio si incontrano per caso e si raccontano, un angolo dove i ricordi si intrecciano con gli aneddoti di 60 anni di carriera. La vita scorre per tutti, veloce, inesorabile e meravigliosa. Ma ci sono dei momenti che resistono all'oblio della memoria. Enzo non mancava mai a un mio appuntamento importante. C'è sempre stato. Ai colloqui scolastici, ai riti religiosi, alle manifestazioni sportive. Mi ricordo quando mi ha portato a fare i provini per il gioco del calcio, perché tiravo bene di sinistro e non mi spaventavo di fronte a niente. Mi esaminò il Milan, ma niente da fare, e mi prese a giocare l'Enotria. Mi portava lui a tutti gli allenamenti e stava lì, ad aspettarmi, facendomi sempre coraggio e dandomi i consigli che solo i papà possono dare. Un'altra volta a scuola, facevo le medie, e stavamo per andare a un colloquio scolastico, credo fine quadrimestre. Beh, io ero sicuro di aver fatto un disastro e per non farlo infuriare, cercai di prepararlo. Probabilmente però, non avendo sviluppato ancora né intelligenza né tatto, dipinsi un quadro veramente catastrofico, tipo siamo a un passo dalla bocciatura. E lui, oltre a essere profondamente amareggiato, voleva ammazzarmi. Cominciamo il colloquio e dopo il primo minuto di convenevoli, i professori, esaminando i voti, cominciarono a farmi i complimenti. Visi sorridenti e incitamenti a continuare così. Enzo chiese se fossero sicuri e mi ricordo ancora che prese la parola la professoressa di inglese e disse «Stai andando bene, ma il prossimo quadrimestre ci aspettiamo faville». Al ritorno, in auto, sull'Alfa 2000, non ci parlammo, ma tutti e due avevamo stampato un sorriso cretino, di quelli che hai quando scendi dall'autoscontro o dall'ottovolante. In questo periodo, fine anni 70 e inizio anni 80, la nostra famiglia non brillava certo per fortuna e felicità. Amici scomparsi, uno sfratto dopo 20 anni senza sapere dove andare a finire, lavoro in crisi. Una sera, prima di andare a letto, vidi Enzo fissare una fotografia dei suoi cari. La mattina dopo era ancora lì, a guardare la foto. Questo mi dimostrò che potenza aveva mio padre dentro di sé e quanto imprevedibile fosse. Come quando si presentò a un mio compleanno con l'auto semidistrutta, perché è arrivato da un viaggio di 600 chilometri, previo concerto, previo viaggio di andata, previa notte prima insonne. Sfido che andò a sbattere per un colpo di sonno. Enzo è geniale, ma spesso incompreso, soprattutto dagli eventi atmosferici e terrestri. Nella nostra vecchia casa avevamo un terrazzo. Un giorno Enzo, non contento di come la mamma lo avesse messo a posto, era splendido, l'ha fatto coprire di erba vera. Morale? primi due giorni spettacolo, terzo giorno pioggia e conseguente terra su tutto il condominio. Erba scomparsa, sostituita da un pantano modello Vietnam in guerra. Ovviamente dovette pulire tutto la mamma. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Paolo Iannacci Aspettando al semaforo, l'unica biografia di Enzo Iannacci che racconti qualcosa di vero. Mondadori Editore, 180 pagine, 18 euro.